Focus Economia di Sebastiano Barisoni. :17:08, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Come vi hanno già annunciato i nostri GR, siamo in diretta dalla 23esima edizione del Salone del Libro di Torino e a questo dedicheremo anche uno spazio in Focus Economia. Va subito precisato infatti che forse complice anche questa crisi, i lettori in Italia aumentano, leggere costa meno che fare altre attività e fa anche bene alla testa, se non al fisico, più 4% quest'anno per un settore che vale 3,5 miliardi di fatturato e 59.000 titoli pubblicati, forse delle volte un po' troppi. Comunque qui siamo in uno spazio espositivo che complessivamente sono più o meno 51.000 metri quadrati, 1.400 editori, 300.000 visitatori attesi in questi 5 giorni. Pensate che l'anno scorso, proprio dentro il Salone del Libro di Torino, furono acquistati titoli, chiaramente non di borsa, ma titoli di libri, per 14 milioni di euro e 10 milioni poi l'indotto a Torino tra pernottamenti, ristoranti e quant'altro, 650.000 euro il guadagno del Salone solo di biglietti. Complimenti quindi anche alla parte economica di fatturato di questo salone. Noi parleremo di libri, parleremo di editoria, di un settore che, ripeto, rispetto ad altri settori va anche meglio grazie all'aumento dei lettori. Le notizie di questa giornata economico-finanziaria invece riguardano di nuovo l'euro, a minimo storico sul franco svizzero e debolissimo in questo momento anche sul dollaro, 1,2578. Le borse la prendono male, non tutte però, perché Francoforte continua a viaggiare in maniera diversa rispetto al resto d'Europa, più 1% Francoforte e oggi anche Londra, più 0,7%. Chi soffre è Parigi, poco, meno 0,3%, e Milano, molto, meno 1,2%. A Piazza Affari in questo momento, a parte Campari, più 4,4%, e ci si avvicina al weekend e allo spritz, dicevamo ogni tanto. Mediolanum più 1,70, Azimut più 1,70, Unipol più 1,20, Tenaris pure, ST Microelectronics più 1,1%. Male invece gli assicurativi e i bancari, Fondiaria perde il 5,3%, Intesa il 3,6%, UbiBanca il 3,2%, Banca Popolare di Milano il 2,5% di calo, come il Banco Popolare. Male anche in Pregilo, meno 2,3%. E Parmalat meno 2,2%, Intesa quindi soffre più di Unicredito, non a caso infatti Unicredito perde solo lo 0,80% come fa Eni in questo momento. Di cosa ci occuperemo quindi? Di euro sul franco svizzero adesso è a quota 1,39 e euro su dollaro, dei dati diffusi oggi dal CIPE, dal Consiglio Interministeriale per la programmazione economica, stanziati complessivamente 11 miliardi per le opere pubbliche, ma lamentano i costruttori pochi soldi per le piccole opere, ci sono solo 300 milioni per l'edilizia scolastica e poi bisognerà capire quando questi soldi, una volta stanziati, effettivamente arriveranno e faranno cassa. Sappiamo che di 6 miliardi stanziati dal governo solo 20 milioni sono stati in questo momento attualmente spesi per le opere pubbliche, che da sempre sono un elemento anticiclico, cioè aiutano l'economia quando l'economia, come nel caso nostro, stenta a ripartire. Di questo parleremo poi dell'automatica, ieri i dati di bilancio, l'assegnazione della gara per i Gratta e Vinci, dopo che comunque l'altro concorrente si era ritirato, la Sisal e appunto anche, come sempre, l'aggiornamento di borsa con le trimestrali uscite oggi. L'ultimo numero per i vostri sms è 349-238-6666, partiamo con le notizie in breve. Per un euro che va ai minimi storici con il franco svizzero c'è un oro in calo, sempre molto forte, ma comunque nulla a che vedere con il record storico di ieri, è a $1,235 l'oncia, ricordo ieri record storico, ma sono tutti i movimenti, quello sul franco svizzero, quello sull'oro, che vogliono dire un'unica cosa: c'è timore, si va verso i beni rifugio e si va verso le monete o le commodity, le materie prime più stabili. Petrolio a $74 il barile, leggero calo meno 1%. E allora di euro parleremo a breve, vedo già molti messaggi, adesso ci arriviamo. Veniamo a qualche dato macroeconomico dagli Stati Uniti. Calano le richieste di sussidi di disoccupazione, per cui calate di 4.000 unità più o meno secondo le previsioni. Schizzano i massimi invece in America i pignoramenti sugli immobili. Pensate che ad aprile sono state pignorate dalle banche 92.400 case in America. E praticamente è un 45% in più quanto a pignoramenti rispetto all'anno scorso. E adesso si muove sulle grandi banche di Wall Street anche la giustizia americana, nel caso specifico quello che è il terrore di tutti i banchieri di Wall Street, il figlio dell'ex sindaco di New York Cuomo. Andrew Cuomo ha aperto un'inchiesta, lui è procuratore a New York, ha aperto un'inchiesta per verificare se Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Merrill Lynch, attualmente controllata da Bank of America, e altre banche come UBS, che è svizzera ma ha una sede importante in America, Credit Suisse, Deutsche Bank e Crédit Agricole. Ebbene, la procura di New York si sta muovendo per capire se queste banche abbiano o meno fornito informazioni false alle agenzie di rating. E adesso veniamo all'Italia, perché più volte abbiamo parlato del buco della sanità italiana, che è un buco in sostanza che oscilla tra i 6 e i 7 miliardi di euro e che è dovuto principalmente a quattro regioni in questo paese, e anche oggi si conferma: Campania, Lazio, Molise e Calabria. Esce dalla lista la Liguria, che per molti anni è stata una regione in deficit sanitario. Che cosa è successo? Questa mattina sono stati convocati a Palazzo Chigi i governatori o i commissari straordinari di queste regioni per comunicazioni sul rientro da questo buco sanitario. E praticamente il governo ha detto che a queste regioni non arriveranno i FAS, quindi i fondi europei, i fondi per le aree sottosviluppate, perché prima devono prevedere un rientro da questo buco di bilancio. E quindi il governo ha bloccato qualunque tipo di aiuto a queste regioni, tant'è che poi il presidente della regione Campania, Caldoro, ha detto: vabbè, il governo ci ha detto che con questo deficit sanitario dovremo aumentare le tasse, purtroppo spesso è l'IRAP, per ripianare il deficit. Scopelliti, governatore della Calabria, ha detto: vabbè, alzeremo le tasse in tutte le regioni che hanno problemi, e quindi anche nella nostra, per entrare dal deficit. Nessun aumento delle tasse per il governatore dell'Abruzzo Gianni Chiodi, che ha detto: insomma, non c'è stato un errore, noi non siamo in deficit. E invece il governatore del Molise, Michele Iorio, ha detto: vabbè, ci hanno chiesto di aumentare le tasse, ma è un atteggiamento assurdo, già le tasse sono al massimo, che è una linea che ha sposato anche la neo presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, che ha detto: abbiamo già le addizionali regionali e comunali al massimo, quindi non riusciremo a coprire quello che si coprirebbe con gli aiuti, con i fondi alle aree in sviluppo. Del CIP parleremo, corposo programma, 11 miliardi, lo ha comunicato il ministro Matteoli, 11 miliardi per le infrastrutture. Ripeto, attenzione, perché c'è uno scostamento tra i soldi che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, quindi il governo, va a dare per le opere pubbliche, quello che invece poi effettivamente è quello che arriva. Con questi conti, con questi bilanci, spesso i soldi stanziati vengono tenuti lì congelati in attesa di tempi migliori. Allora, ultimo dato riguarda i rendimenti delle aste sui BTP italiani a 5-15 anni. C'è comunque, questa è una buona cosa, una richiesta nettamente superiore all'offerta, quindi non c'è un problema per l'Italia nel trovare finanziatori sul suo debito. Collocati oggi 3 miliardi di BTP a 5 anni, la richiesta era di 4 miliardi. Il rendimento è anche sceso, e questa è una buona notizia, perché vuol dire che l'Italia può trovare finanziatori offrendo un po' di meno come tassi di interesse, al 2,57% lordo, ed è il livello più basso nei BTP a 5 anni dal giugno del 2003. Collocati anche 2 miliardi di BTP a 15 anni, richiesta per 3 miliardi e mezzo, lì il rendimento però è salito leggerissimamente al 4,42%. E poi arriva a bacchettare l'Italia il guru, quello che ha previsto la crisi per primo, Nouriel Roubini. Ha detto: insomma, l'Italia ha fatto interventi importanti per evitare gli effetti della crisi, ma attenzione, c'è un po' troppo autocompiacimento nel vostro paese, c'è troppa autostima su quello che riuscite a fare, occorre non sottovalutare il pericolo di una crisi che ancora resta. Bene, partiamo con il primo tema, 349-238-6666 per i vostri sms. Siamo, lo ricordo, al Salone del Libro di Torino, vi do anche il padiglione nel caso qualcuno fosse in giro. Il padiglione è il 2, è il settore H170 e incredibilmente c'è anche un pubblico giovane e meno giovane che ci guarda. Partiamo col primo tema, dicevo, l'euro ai minimi sul franco svizzero e di nuovo in indebolimento sul dollaro. Si è scivolato già questa mattina l'euro sul franco svizzero a quota 1,2595, vi do adesso l'aggiornamento, in questo momento è a 1,2595 sul dollaro, chiaramente sul franco svizzero è 1,4003, che è di nuovo il livello minimo mai raggiunto da quando esiste l'euro, quindi dal 1999. Nel frattempo la disoccupazione in Grecia è salita al 12,1%, insomma un anno fa era al 9%, 3 punti percentuali di disoccupazione in un anno in Grecia e purtroppo non è destinata a rallentare. In Portogallo c'è stato un accordo, il Portogallo è il paese che è riuscito in questo momento a trovare l'accordo più forte tra governo e opposizione e quindi da un lato il premier socialista José Sócrates e dall'altro il leader dell'opposizione di centrodestra che Passos Coelho hanno raggiunto un accordo nella notte per arrivare a un aumento delle tasse, un nuovo giro di vite che aumenta praticamente l'IRPEF e l'IVA in Portogallo per ridurre il deficit che attualmente è al 9,5%, quest'anno vorrebbero portarlo al 7% e al 2,8% nel 2013. E poi la Banca Centrale Europea che ha detto insomma bisogna agire subito, ho la fiducia sui conti dei paesi aderenti all'euro, se no la fiducia rischia. A rischio l'acquisto delle obbligazioni da parte della Banca Centrale Europea è una parte importante del pacchetto di misure a sostegno dei paesi dell'area euro in maggiore difficoltà e serve per evitare un effetto contagio. La Banca Centrale Europea ha anche previsto però una disoccupazione in aumento nell'area euro nei prossimi mesi. Poi un giudizio di questi che ci lasciano sempre un po' così, ha detto infatti la Banca Centrale Europea, la crisi finanziaria potrebbe frenare la crescita. Diciamo che un sospetto era venuto anche a noi, dottor Roberto Mialic, responsabile in Unicredito della ricerca cambi, quindi operazioni sul fronte valutario, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. La sento leggermente basso. Pronto? Eccoci. Okay, allora... tutto chiaro il perché l'euro si muova, o meglio, continua a essere debole nei confronti del dollaro, ma c'è chi sta unendo in queste ore come commento il record dell'oro di ieri e il record del franco svizzero sull'euro. Secondo lei fa bene o è un volo pindarico? Beh, oddio, siamo in una situazione in cui, diciamo così, le speranze che il mega piano che è stato proposto all'inizio di questa settimana da parte dell'Europa e del Fondo Monetario riuscisse in qualche modo ad aiutare a migliorare la situazione, e in parte lo ha fatto sui mercati azionari, lo ha fatto su quelli obbligazionari, anche perché come è noto le banche centrali hanno iniziato a comprare direttamente titoli, quindi sono intervenute sul mercato del reddito fisso. Non ci sono stati interventi sui cambi e quindi l'euro in qualche modo è tornato a indebolirsi, proprio perché al di là delle dimensioni del piano comunque rimangono molti dubbi sul mercato sul fatto che effettivamente le economie e i paesi a cui è richiesto uno sforzo finanziario molto, molto pesante siano davvero nelle condizioni di poterlo fare, soprattutto abbiamo già visto la protesta sociale ad Atene, sappiamo che già la prossima settimana saranno indetti nuovi scioperi e quindi questo fa sì che il mercato comunque sia molto cauto, tenendo presente che poi in questo momento c'è la ragionata e ragionevole convinzione che un euro più debole in un contesto tutto sommato di inflazione sotto controllo non abbia poi grosse controindicazioni per l'Europa ed anzi possa rappresentare un minimo o uno dei pochi canali per tenere su la domanda e quindi in qualche modo stimolare l'economia. Ecco, mi scusi Mialic, mi faccia capire una cosa, perché ce lo chiedono anche gli ascoltatori al 349-238-6666. Per carità, importante la debolezza storica nei confronti del franco svizzero, ci costeranno di più alcune importazioni dalla Svizzera, cioccolato, orologi e quant'altro, però l'euro a 1,26 o 1,25 sul dollaro, perché deve essere preoccupante? Cioè io capisco quando vediamo un'ondata speculativa nei confronti dei titoli azionari, delle borse, dell'area euro, e lì va bene. Capirei se ci fosse un problema sulle obbligazioni, cioè se gli stati, Italia, Spagna, Portogallo, avessero problemi a finanziare il debito. Ma voglio dire, ma si vive benissimo con l'euro 1,25, perché tutti parlano di debolezza? Noi abbiamo vissuto con l'euro a 0,90, a 0,82, chiaro, a 1,1, a 1,10. Certo. Si esporta meglio, si paga un po' di più la benzina, ma lì basterebbe che il governo mettesse in atto un'IVA anticiclica, cioè più sale il prezzo del petrolio, più si abbassa l'IVA, e tutto sommato ci farebbe solo bene. Perché dite debole? Beh, oddio, è chiaro che comunque se ragioniamo che l'euro valeva oltre 1,51 a dicembre, è chiaro che 25 figure, come si dice in termini tecnici, di ribasso non sono certamente un segnale di forza. Volevo fare due considerazioni comunque. Allora, la prima, il discorso relativo all'oro e soprattutto anche conseguente al fatto che comunque l'avversione al rischio sul mercato, nonostante tutto, e rimane. Questi sono mercati ancora molto volatili, molto nervosi, quindi è chiaro che la questione del bene rifugio resta sempre valida, e quindi anche questo è tipicamente il ruolo dell'oro. Secondariamente, sulla questione del franco svizzero si è apprezzato molto, anche perché da un lato l'euro si è indebolito nei confronti del dollaro, poi questo crea generalmente sempre effetti di trascinamento o di simpatia sul resto dei cambi della moneta comune. Poi soprattutto quello che ci si aspettava è che la Banca Nazionale Svizzera, per cui il franco si è apprezzato tanto, perché si è apprezzato quasi del 20% in 3 anni in termini nominali effettivi, quindi insomma è tanto, sarebbe dovuto intervenire. Non lo ha fatto e il mercato quindi ha capito che ci si può spostare ancora più in basso in termini, quindi far scendere di più l'euro nei confronti del franco svizzero. Per quanto riguarda la questione invece dell'euro, vorrei dire solo una cosa: se lo guardiamo in termini di parità di potere d'acquisto, che è uno degli indicatori che si usano anche sui mercati dei cambi, sì, per vedere quanto è correttamente valutato il tasso di cambio, parità di potere d'acquisto dice che l'euro dovrebbe stare tra 1,12 e 1,17, quindi a questi livelli è ancora, diciamo così, tra virgolette, sopravvalutato, ovvero ci può stare ancora un 10% di discesa dell'euro perché l'euro torni a un valore diciamo così coerente con i differenziali di inflazione o di medio periodo, non un euro sottovalutato ci potrebbe andare se dovesse andare sotto 1,10. Diciamo così, più o meno. Quindi, mi scusi, se ho ben capito, Miali, ce le dice, guardando quello che è il peso economico di Stati Uniti e Europa e andando a vedere quello che poi è il potere d'acquisto, un rapporto di cambio corretto sarebbe 1,10. Cioè, un euro uguale più che 1,10 o 1,17, dai. 1,10, diciamo così, che ai livelli attuali la discesa dell'euro potrebbe, anzi, è facilmente... non è ancora finita e facilmente non lo sarà, cioè nel senso che possiamo aspettarci un'ulteriore discesa, però, anche perché, come diceva giustamente lei, in questo momento grosse controindicazioni di avere un euro più debole in questa fase ciclica non ci sono, e non si vede neanche un motivo forte per cui il mercato dovrebbe cambiare il sentiment di fondo, cioè tutto sommato anche dal punto di vista degli Stati Uniti gli ultimi dati macro sono stati positivi e presumibilmente la Fed è messa nelle condizioni di alzare i tassi prima e più rapidamente di quello che in questo momento è nelle condizioni di poter fare la Banca Centrale Europea, quindi insomma da un certo punto di vista gli gioca quasi tutto contro, ma non è detto che sia un male. Direi che l'unico motivo per avere un dollaro non così forte ce lo può avere Barack Obama, perché insomma, avendo grosse difficoltà a esportare gli Stati Uniti, forse non sono contenti di avere un dollaro così forte, ma al di là dei problemi americani, che sono tutti problemi loro, io penso che all'Europa possa fare anche comodo un euro a 1,17, a 1,15, e ci mancherebbe. Grazie al responsabile cambi del gruppo Unicredito, Roberto Mihajlić. La borsa si avvia a chiudere, lo dico anche al pubblico numeroso e presente qui agli studi di Radio 24 al Salone del Libro di Torino, al Lingotto, meno 0,80%, ha recuperato parecchio Milano nell'ultima mezz'ora, evidentemente il programma porta bene, no, non è così. Meno 0,80%, l'America invariata, Francoforte più 1,16%, anche Parigi ha recuperato, invariata anche Parigi, Londra più 0,6%, euro invece fermo 1,40% sul franco svizzero, 1,2580 sul dollaro. Male oggi alcuni assicurativi, Fondiaria meno 5,20%, Intesa pesante oggi anche rispetto alle altre banche, meno 3,60%, Ubibanca meno 2,60%. E allora iniziamo cambiando tema, poi dopo il meteo e la pubblicità, per rispettare gli orari di Radio 24, e andremo ad approfondire meglio gli altri temi. Perché ci ha raggiunto, e lo ringrazio in collegamento, il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Marco Polillo. Buonasera Presidente. Buonasera. E grazie anche alla nostra Alessandra Tedesco, che è la donna del libro, o il libro della donna. Bella questa definizione, la donna del libro, me la segno, Sebastiano. Grazie, tu ci racconterai invece quali sono le tendenze, chiaro sempre in ottica economica, di questo Salone del Libro. Lei invece, Presidente, ci aiuti a capire come va un settore che, da quello che abbiamo visto, e mi riferisco ai lettori, più 4%, tutto sommato è uno dei settori che vanno meglio in questo paese, col vino e il settore alimentare, cioè uno beve, mangia e poi legge un libro. O al contrario, vediamo molto poco negli altri settori produttivi del paese, 3,5 miliardi di giro d'affari, e come si stiano muovendo i lettori, abbiamo detto, complice anche la crisi, non è una battuta, Giampaolo Fabris ce l'ha spiegato molte volte cos'è il principio di neosobrietà che sta arrivando con questa crisi. Dicevo, i dati sui lettori, sui movimenti, sui gusti, in questa scheda. Quinta in Europa e settima al mondo per fatturato e titoli pubblicati, l'industria italiana del libro sembra aver retto meglio di altri comparti un 2009 difficile. Lo scorso anno, infatti, è cresciuto sia il giro d'affari che la percentuale di lettori, che, rileva l'Istat, ha raggiunto quota 45,1% contro il 44% del 2008. Oltre 25 milioni di italiani con più di 6 anni hanno dunque letto almeno un libro l'anno, anche se resta il fatto che un italiano su due non ne ha letto alcuno. Segno più anche a inizio 2010, con il mercato del libro cresciuto del 3,7% nei primi 3 mesi rispetto allo stesso periodo 2009. Ma qual è l'identikit del lettore italiano? La quota più alta di appassionati ha tra gli 11 e i 17 anni, mentre man mano che l'età avanza scende la voglia di immergersi nella lettura. A sfogliare le pagine sono soprattutto le donne e chi è laureato, rispetto a chi ha la licenza elementare o nessun titolo di studio. Forti anche le distanze a livello territoriale tra nord e sud. Il Trentino Alto Adige, con oltre il 56% dei suoi abitanti lettori, doppia quasi la Sicilia. Infine, accanto ai cari vecchi libri cartacei, c'è il nuovo che avanza, ossia il libro digitale. In base ai primi dati disponibili, il 7,5% degli italiani ha già comprato un ebook o sta per farlo. Il 5,8% aspetta solo un maggior numero di titoli in italiano e un altro 2,8% la possibilità di leggersi sullo schermo dei bestseller. Eh sì, c'è anche l'ebook tra i fenomeni di questo Salone del Libro di Torino, ebook, book, giornale. Noi basterebbe che i lettori, non la lettura, ma i lettori aumentassero un po' di più. Presidente, facciamo una cosa, andiamo in pubblicità e poi ci racconti le tendenze del mercato. Ripeto, 3,5 miliardi più 4% attese nel giro d'affari. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa parte di Focus Economia, in cui parleremo anche di borsa, ma prima di libri, in uno studio, quello di Radio 24 qui al Salone del Libro, con un pubblico, devo dire con mio piacere, un pubblico anche femminile, per cui non è vero che l'economia interessi solo il pubblico maschile. Allora, abbiamo sentito dalla scheda che cosa e come va un settore, Presidente. Devo dire che rispetto ad altri settori voi siete sostanzialmente dei miracolati, però qualche problema ce l'avete avuto. Per esempio, il venire meno delle tariffe agevolate, delle tariffe postali agevolate, non ha colpito solo i quotidiani che vanno in abbonamento, come anche al Sole 24 Ore sappiamo bene, ma anche tutto il mondo dell'editoria. Se mi racconta questo aspetto, tenendo assieme però anche l'andamento complessivo del settore, che ripeto, ha dati buoni visto il panorama, mi fa felice. Allora, i dati sono buoni effettivamente, però sono dati che vanno interpretati, nel senso che nel momento in cui cresce di un punto percentuale il numero dei editori in Italia è chiaramente un segno positivo e va bene. Peccato però che quel punto porti dal 43 al 44%, quindi il bicchiere veramente in questo caso è mezzo vuoto. È anche vero che nel 2009 rispetto al 2008 e nei primissimi mesi del 2010 il mercato è cresciuto. Però il 2008 aveva segnato un netto calo rispetto all'anno precedente, quindi c'è un recupero di quello che erano vendite perse, e il 2010, che pure era partito bene, ahimè nel mese di aprile ha avuto una frenata, sarà il brutto tempo, saranno strane cose, tutto quello che vogliamo, ma di fatto però non è un mercato sempre così florido. È vero che noi siamo in qualche modo dei miracolati però, perché è vero che nonostante tutto il settore dei libri in Italia la sua strada continua a farla con mille difficoltà, ma abbastanza tranquillamente, tra virgolette, nel senso è un mercato che non è per niente maturo, noi ci aspettiamo che incrementi ancora di più e deve incrementare ancora di più, è un mercato dove alla fine i conti non sono mai brillantissimi, tranne forse per grandi editori che hanno quei mega bestseller che vendono centinaia e centinaia di migliaia di copie, ma però alla fine bene o male ci si riesce a barcamenare. Cosa è successo sul discorso delle tariffe postali? Purtroppo il primo aprile, che mai data fu più significativa, è stato reso operativo un decreto emanato il giorno prima, quindi neanche con grande anticipo per permetterci di fare i nostri ragionamenti, che di fatto ha abolito tutte le agevolazioni previste sulle tariffe postali. Questo significa, per quanto riguarda il mondo dei libri in particolare, che le spedizioni di libri, e voi pensate a tutto quello che spedisce un editore, al libraio, ai clienti, ai distributori, eccetera, eccetera, non godevano più di quelle agevolazioni che venivano, di fatto erano delle integrazioni di denaro che il Presidente del Consiglio, quindi il Governo, dava alle poste per permettere di tenere le tariffe in una certa misura. Questo scherzetto è costato di punto in bianco su base annua 23 milioni di euro, abbiamo calcolato, con la grande aggravante che avendo decorrenza praticamente immediata, e poi vi dirò perché c'è questo praticamente, rendeva impossibile un aggiornamento sui prezzi nei confronti di tutti i clienti con i quali per esempio il listino era già stato fatto. Io non posso fare un abbonamento a un signore per l'anno 2010, poi ad aprile dire: sai, mi sono sbagliato, adesso ti aumento del 20% le tariffe perché il governo mi ha aumentato i prezzi. Dicevo praticamente perché in realtà l'intero mondo dell'editoria, libri, periodici, quotidiani, si è ribellato a questa ipotesi e il governo ha immediatamente aperto dei tavoli tecnici per capire, insieme anche alle poste, per capire cosa si poteva fare. Tavoli che però, ormai è passato un mese e un po' di giorni, sono ancora lì a cercare di trovare un bandolo della matassa che è difficile da mettere a punto, considerata la indisponibilità, almeno fino a questo momento, da parte del governo a intervenire con almeno una parte, piccolo o grande che sia, della contribuzione che è stata tolta. Allora, Presidente, due domande che arrivano dagli ascoltatori al 349-238-6666. Benissimo, insomma, il lavoro fatto da voi, ma ci chiedono perché non abbassare il prezzo dei libri, cioè perché i libri, soprattutto in prima pubblicazione, quindi non in formato paperback, costano così tanto, cioè 17, 20, 25 euro è tanta roba in questo periodo. A maggior ragione se poi abbiamo detto, non con una battuta, che anche la crisi, la minore disponibilità economica può portare a leggere di più, a utilizzare altre forme ricreative, però devono costare un po' di meno. Prima domanda. Seconda domanda, quanto guadagna mediamente uno scrittore? Perché qua c'è l'illusione che siano tutti quanti Foresight o via discorrendo. Mi sembra che i guadagni siano un po' più da fame. Comunque, le due domande. Allora, parto dalla seconda che è più semplice. Il nostro buon autore di bestseller Dan Brown guadagna qualche milione di dollari perché con le vendite che ha fatto in tutto il mondo si è arricchito lui e le generazioni future per non so quante. L'autore è un autore, in realtà guadagna molto poco, perché intanto dovete sapere che gli autori vengono pagati a percentuale sul prezzo di copertina. Le percentuali possono cambiare, sono percentuali più basse dell'ordine del 5% quando si parla di un'edizione economica, sono percentuali leggermente più alte quando si parla di un'edizione rilegata a prezzo pieno. Cambiano molto a seconda della importanza e della capacità commerciale dell'autore, quindi si arriva a delle punte massime che so del 15%, ma molto spesso queste sono punte che ricevono veramente gli autori di grandi bestseller. Molto spesso gli autori partono dall'8, 10, 12%. Dipende molto poi se sono autori italiani o se sono autori stranieri, perché gli stranieri hanno qualche percentuale in meno perché c'è il costo della traduzione che deve essere aggiunta su quello del prodotto. Mi dia una cifra, dai, quanto guadagna mediamente uno scrittore? Dai. Direi che se va bene 10.000 euro, se va male 1.500. Ecco, così abbiamo impedito che molti ascoltatori abbiano voglia di diventare scrittori. Vorrei aggiungere una cosa: per scrivere seriamente un libro, uno bravo ci mette un anno. Con 1.500 euro all'anno oggettivamente non si va molto lontano. I libri scolastici, anche qui qua, ho visto che Cota, il governatore della regione Piemonte, ha detto: appena faremo il bilancio daremo 50 euro ai ragazzi per comprare i libri. Penso a tutti i ragazzi, non solo a quelli italiani. Cioè, penso che non ci saranno polemiche questa volta sugli studenti extracomunitari o comunitari o italiani o piemontesi. Quello potrebbe essere un'iniziativa? Quello è certamente un'iniziativa che abbiamo accolto con grande favore. Io l'ho appurata questa mattina in diretta quando parlava il Cotta, e è una cosa significativa perché aiuta quantomeno ad avvicinare i ragazzi al mondo del libro. Anche se i ragazzi, dalla scheda che è stata letta in precedenza, si è dimostrato che sono i maggiori fruitori dei libri. Purtroppo il problema è che quando crescono smettono di leggere. Allora, perché smettono di leggere? La versione classica. Perché lavorano? Perché non c'è. Sì, ma tutti lavoriamo, non è che però lavoriamo fino a mezzanotte. Allora la gente normalmente si colloca davanti alla televisione a partire dalle 8, si vede il telegiornale e poi si abbrutisce fino a ora tarda. Magari se certi programmi, invece di essere visti dall'inizio alla fine, venissero presi per quello che sono, e magari uno ci prova per una mezz'oretta con un libro, forse scoprirebbe che c'è un mondo che non conosce e che merita di essere approfondito. Vorrei però rispondere anche all'altro ascoltatore che parlava del prezzo di copertina dei libri. Un minuto. Non sono affatto cari. Un'edizione tascabile costa 8 euro, una pizza costa 9 euro. Per fare un libro di 300 pagine un signore ci mette un anno della sua vita, per fare una pizza ci si mettono 3 minuti. Il concetto è che la gente non si rende conto cosa c'è dietro a un libro. Cosa c'è? C'è l'autore, c'è l'editore, c'è il traduttore, c'è il correttore di bozze, c'è il tipografo, c'è lo stampatore, c'è quello che fa la copertina, c'è la carta da comprare, c'è lo sconto al libraio, c'è lo sconto al distributore, c'è la percentuale per la gente. Tutto questo incide. Alla fine uno stampa 2.000 copie, a quella tiratura ci perde dei soldi e si sente anche dire che 20 euro sono troppi. 2.000 copie vuol dire che è come se io andassi a portare ai miei singoli clienti, ai miei singoli lettori, il libro in mano. Un paio di jeans firmati che hanno un valore di costo del prodotto pari a pochi centesimi viene venduto a 100 euro e nessuno batte ciglio. È un luogo comune assolutamente ingiustificato. È ora che venga eliminato. Anche il pubblico applaude. Bene, così sentiamo che vivo e lotta assieme a noi. Detto questo, sì e no, abbiamo cifre sui libri, per esempio i libri universitari, libri più ricercati, che hanno valori altissimi. Poi non vi lamentate se ci sono le fotocopie, ma soprattutto non è pensabile che si vada sempre a pagare 30, 40, 50 euro. Cioè, l'istruzione non può essere un problema per ricchi, questo non può essere un paese per ricchi. Dopo il traffico e prima di arrivare alla borsa, che tanto vi anticipo a chi si fosse appena messo in collegamento, meno 0,70%, vorrei capire con Alessandra Tedesco se una quadratura del cerchio o una soluzione a questo potrebbe arrivare dall'ebook, cioè se attraverso l'ebook, che è il libro via internet, poi vedremo anche come, potrebbe costare meno la lettura, magari come internet fa costare meno altri servizi. 349-238-6666 per i vostri sms. D'accordissimo invece Presidente sul discorso generale, che poi si spende tantissimo per i telefonini o per i vestiti molto meglio per i libri. Quello è un problema di scelte, di cultura, però anche quando uno fa una scelta i costi non sono bassi. Ci sentiamo dopo il traffico. Di nuovo in diretta dagli studi Radio 24 al Salone del Libro di Torino, abbiamo anche due piccoli spettatori. Auguri, spero di riuscire a spiegare anche a voi queste cose. Futuri lettori, futuri speriamo. Futuri lettori e ascoltatori della radio, ci auguriamo. Allora, Alessandra Tedesco, mentre vedo un ascoltatore, alcuni ascoltatori che dicono vabbè, ma sai così ci spieghi perché i librai dicono che gli editori sono dei ladri perché fare i libri costa pochissimo e loro ci guadagnano sui margini. Io giro le cose che mi arrivano, non è che... No, i librai in realtà non c'erano tanto con gli editori, c'erano quanto... di più con la grande distribuzione, che si permette di fare sconti sul pezzo di copertina che loro non possono permettersi, e ce l'hanno con i grandi editori perché fanno campagne fortemente scontate e di conseguenza anche lì, siccome il libraio ha una percentuale sul pezzo di copertina, di fatto guadagna di meno. Allora, adesso, prima di arrivare alla borsa, lo dico anche a chi scrive, cioè, vuol dire, non vi è bastata la borsa la settimana scorsa e questa settimana? Ogni tanto la borsa fa meno notizie, adesso ne parliamo ampiamente. Meno 0,70% rispetto alle sberle delle ultime settimane è poca cosa. Alessandra Tedesco, cosa arriverà dall'ebook che mi sembra, assieme all'India, che è il titolo di questo salone, mi sembra la novità di questo Salone del Libro? Sì, in realtà è già dall'anno scorso che non si fa altro che parlare di ebook, ne aveva parlato l'anno scorso proprio nell'apertura del Salone del Libro Umberto Eco. Insomma, l'ebook, parere mio personale, ma credo anche di molti esperti del settore, non sostituirà il libro di carta, è qualcosa che si affiancherà al cartaceo. L'ebook è molto utile per esempio per il professionale, per consultare dei testi, magari si compra un tomo di 1500 pagine e devo consultare solo una parte. Per leggere i romanzi ancora non è affermatissimo, anche se è notizia proprio di oggi qui al Salone del Libro che da stasera inizierà per esempio su IBS la vendita di molti titoli in italiano di romanzi, perché non ci dimentichiamo che fino adesso chi ha l'ebook, l'e-reader, insomma lo strumento per leggere l'ebook, ha a disposizione molti titoli in inglese ma ha a disposizione pochi titoli in italiano, invece a partire da oggi ci saranno anche molti titoli in italiano. Il mercato dell'ebook è ancora molto relativo, sono dati proprio presentati oggi dall'AIE, quindi l'Associazione degli Editori, e dall'indagine Nielsen, che il 7,5% degli italiani al di sopra dei 14 anni ha già comprato un ebook e sta per farlo. Molti altri invece aspettavano appunto questi titoli in italiano. Costeranno di meno? Beh, certamente comprare un ebook probabilmente costa meno di un libro cartaceo, ma come ti dicevo prima, Sebastiano, non sostituirà, tutta più affiancherà il libro di carta. Grazie, grazie Alessandra Tedesco, che sarà la nostra voce, il filo rosso in questo Salone del Libro di Torino. Ripeto, molti programmi di Radio 24, dopo di me Giuseppe Cruciani, domani anche altri programmi verranno, andranno in onda qui. Padiglione 2, settore H170. E adesso grazie quindi al Presidente dell'Associazione Italiana Editori per aver risposto anche alla domanda degli ascoltatori, grazie a Alessandra Tedesco. Io vorrei adesso arrivare ai mercati arriveremo anche tranquillito gli ascoltatori nella seconda ora del programma, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, grazie Presidente Polillo, parliamo adesso di borsa. Allora, meno 0,70% per quello che riguarda Milano, meno 0,30% adesso l'America è negativa, chiuso positiva a Francoforte, più 1,1%, invariata a Parigi, meno 0,6%, Londra più 0,93%, euro a quota 1,25% sul dollaro e a 1,40% minimo storico da sempre nei confronti del franco svizzero. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, che è successo a Intesa San Paolo, visto che siamo a Torino, magari... qua tra il pubblico c'è anche qualche azionista di San Paolo, meno 3,5%, peggiore oggi tra i bancari. Beh, oggi pomeriggio hanno pesato sulle azioni di Intesa San Paolo le indiscrezioni relative a uno slittamento a dopo l'estate della quotazione della controllata del risparmio gestito Fideuram. Diciamo che non c'erano state indicazioni ufficiali sui tempi di quotazione, ma il mercato insomma incominciava a aspettarsela anche secondo qualche indiscrezione di stampa per giugno. Poi complice anche la situazione dei mercati, l'abbiamo visto la settimana scorsa, la situazione greca. qualche dubbio era circolato, oggi pomeriggio i dubbi sono diventati un po' più consistenti e questo slittamento di una quotazione in borsa, che certamente porterà anche cassa appunto nelle casse di Intesa San Paolo, ha un po' messo di malumore il mercato, e per questo che in una situazione di bancari non brillantissimi Intesa San Paolo si è comportata peggio delle altre, ha perso il 3,5. Sì, quindi nulla di fatto su Venezia non c'entra nulla. Scusa, l'influenza è più di motivo, più di carattere industriale legato al progetto di quotazione Fideuram. E poi domani c'è la trimestrale di Intesa San Paolo, quindi probabilmente anche qualche attesa. Fondiaria Assai, se ce la facciamo in 30 secondi, poi il resto dei titoli dopo il GR, meno 5,12, il peggior titolo oggi dell'S&P MIB. Sì, la trimestrale diffusa da Fondiaria Assai ieri sera ha fortemente deluso il mercato, qualche analista ha detto ancora molto lontana l'uscita dal tunnel per questa compagnia assicurativa, fa parte del gruppo Ligresti, meno 5% Fondiaria Assai, ma è andata male anche all'altra compagnia del gruppo Ligresti, Milano Assicurazioni, sempre complice una trimestrale in perdita, meno 4,5%. In una battuta, Campari, perché abbiamo scherzato sullo spritz, lo facciamo ogni tanto, però Campari è andata molto molto bene oggi, più 4,70%. Sì, i conti del primo trimestre effettivamente hanno dato molte indicazioni positive, non solo le vendite sono state in crescita del 23% a 233 milioni, ma anche il margine operativo si è ampliato crescendo più o meno nella stessa grandezza, quindi 22,9%, è aumentato anche l'utile antimposta di 43 milioni e si è ridotto l'indebitamento, quindi buone notizie per Campari dal primo trimestre, ed ecco perché il rialzo è stato molto significativo, il migliore del FTSE MIB. E sarà un caso, ma insomma vanno bene il settore del libro, il settore degli alcolici, il settore alimentare con questa crisi, insomma i settori dello stare in casa. Andrea Fontana, ci risentiamo dopo il GR, 349-238-6666, parliamo di borsa ma anche dei soldi per le infrastrutture, se ce la facciamo, di Lottomatica. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ricordo che stiamo trasmettendo dagli studi di Radio 24 al Salone del Libro di Torino, Padiglione 2H170, con il pubblico che si è preso una giusta pausa durante la pubblicità, giusta non importa, e adesso sta tornando. Volevo concludere i mercati finanziari con Andrea Fontana. Al di là di Campari, molto bene grazie alla trimestrale, più 4,7%, Intesa San Paolo meno 3,5% per via del posticipo, diciamo, della cessione di Fideuram. Fondiaria, anche qui la trimestrale pesa, meno 5,12%. Ancora abbiamo tra i titoli che bene sono andati un titolo come Unipol, più 1,1%, ma anche Mediolanum un più 2,2% e Azimut più 2%, quindi il settore del risparmio gestito bene oggi, Andrea. Risparmio gestito per Mediolanum e Azimut, un primo trimestre molto positivo nel risultato netto del periodo gennaio-marzo, entrambi hanno praticamente quadruplicato l'utile netto e il mercato ha risposto positivamente. Per quanto riguarda Unipol invece è un rialzo sulla fiducia, nel senso che domani saranno diffusi i conti trimestrali e soprattutto verrà reso noto il piano industriale 2010-2012, ricordiamoci quando Unipol un mese e mezzo fa annunciò un aumento di capitale da 500 milioni a servizio di un piano industriale non ancora noto, il mercato l'ha prese male, ora il mercato spera di avere indicazioni positive dal piano triennale di domani e quindi oggi il titolo ha guadagnato più dell'1%. E di Mediolanum appunto l'utile che è balzato a 66 milioni, raccolta 1 miliardo e 800 milioni, tra l'altro Mediolanum ha chiarito, lo ha fatto lo stesso vicepresidente del gruppo Massimo Doris, ha chiarito di avere un'esposizione complessiva di soli 140 milioni di euro su Grecia e un'esposizione pari a zero nel caso del Portogallo. Bene anche l'utile della Brembo, tutto in miglioramento, più 24% il fatturato a 244 milioni e in risultato netto a 6,7 milioni. Migliori e peggiori volete sapere? Allora Marcolin più 9,7 e poi Bialetti Industrie più 6,20, Ciccolella più 4,96 e di Campari abbiamo detto, il peggiore è Tiscali. Novità su Tiscali, ha preso una sbella, meno 6,7%? No, si è mossa effettivamente molto volata negli ultimi giorni, una trimestrale che aveva mostrato una riduzione delle perdite l'altro giorno, aveva dato una buona spinta, ma per la verità poi il mercato ha un po' mostrato delusione per questi conti, nonostante la riduzione delle perdite per gli analisti ancora insomma non ci siamo molto, e questo poi ha penalizzato un po' il titolo negli ultimi giorni. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso ci occupiamo del CIPE, ossia degli 11 miliardi sbloccati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, un corposo programma di infrastrutture. La domanda però, come sempre, resta: quanto tempo passerà dallo sblocco di questi soldi all'arrivo effettivo di questi soldi, quindi alla messa in cantiere delle opere oggi approvate dal CIPE? 349-238-6666 per i vostri sms. Miliardi, dicevamo, un corposo programma, lo ha definito il ministro delle infrastrutture Matteoli. 11 miliardi sbloccati, sono stati approvati tra le altre cose il progetto del potenziamento della linea ferroviaria Ro-Gallarate, 400 milioni di euro, e poi la metropolitana M2-M3 per quello che riguarda l'Expo di Milano 2015, 1 miliardo e 400 milioni il valore, il progetto del collegamento viario tra il porto di Ancona e le autostrade 480 milioni, un ulteriore finanziamento per la Salerno-Reggio Calabria di 107 milioni per la messa in sicurezza della galleria Fossino al confine tra la Calabria e la Basilicata. Via libera anche al contratto di programma con le Ferrovie dello Stato per l'alta velocità alta capacità tra Milano e Genova, l'alta velocità alta capacità tra Treviglio e Brescia e il tunnel del Brennero, via anche alle convenzioni autostradali. E tra quelle autostradali anche la Cecina-Civitavecchia, molto discusso il trasformare l'Aurelia in autostrada, è un importante passaggio. Praticamente, detto Matteoli, vengono sbloccati investimenti privati in favore del miglioramento e dell'ampliamento delle autostrade complessivamente per oltre 9 miliardi. E poi un programma, ha esaminato il CIPE il contratto di programma per ST Microelectronics insieme a Enel e Sharp. C'è poca roba e lo lamentano i costruttori attraverso l'ANCE, e la Confindustria ha detto che lo sblocco va bene, è un effetto positivo, e l'ANCE, che fa parte sempre di Confindustria, ha però detto mancano i finanziamenti per le piccole opere, ci sono solo 300 milioni per l'edilizia scolastica. Ora, siccome però ricordiamo che il CIPE aveva già sbloccato 6 miliardi di opere, ma anche qui denunce dei costruttori, ne sono arrivati solo i 20 milioni di cantierabili, saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento Giorgio Santilli del Sole 24 Ore, la penna e anche la voce quando parliamo di opere infrastrutturali. Buonasera Giorgio. Buonasera Sebastiano, ciao. Allora, prima del traffico, poi andiamo all'analisi, ci lasciare con questo dubbio: di questi 11 miliardi, secondo te quanti saranno cantierabili subito? Cantierabili subito, questa mi sembra una previsione difficile, poco, adesso non so dire, nell'ordine dei milioni sicuramente, nel senso che tutte queste opere poi prima di essere avviate hanno bisogno di una verifica sui progetti, in alcuni casi delle gare. Detto questo, non voglio togliere assolutamente importanza al file di oggi, perché oltre ai tanti blocchi procedurali che conosciamo nelle opere pubbliche, si era creato un tappo che era proprio un tappo politico. Il CIPE non si riuniva da parecchio tempo, non prendeva decisioni importanti da parecchio tempo. È sicuramente un segnale molto importante quello di oggi, poi ne parliamo sicuramente. Avevamo bandito anche una caccia al tesoro, dove è finito il CIPE, visto che c'era una riunione del governo appunto prevista per il 23 aprile, se non ricordo male, che poi è scomparsa, complice anche un po' di problemi con l'allora ministro delle attività produttive Claudio Scaiola. Allora sì, il pubblico qui ce lo ricordiamo. Allora 349-238-6666 per i vostri sms, il traffico e poi... il CIPE, o meglio, che cosa sarà cantierabile da subito a partire dall'edilizia scolastica, perché più piccole sono le opere di solito prima si dovrebbe fare. 349-238-6666 per gli SMS. Allora, vediamo un po' queste opere sbloccate oggi dal CIPE. Giorgio Santilli, non essere modesto, tu le cose le conosci meglio delle volte, lo dico con massimo rispetto, anche dei ministeri. Secondo te quali saranno quelle prima cantierabili? Si dice spesso che l'edilizia, le piccole opere, penso all'edilizia scolastica, abbiano tempi più snelli rispetto alle grandi reti infrastrutturali, alle metropolitane e quant'altro. Hai assolutamente ragione, infatti penso, come dicevi prima, che i progetti di edilizia scolastica sono tutti progetti di manutenzione prevalentemente, sono 1700 interventi molto urgenti, anche lì si aspettava da molto tempo, gli stessi provveditori, il Ministero dell'Istruzione avevano sollecitato questo intervento da molto tempo, oltre, come ricordavi, Lance e i costruttori, perché i costruttori hanno fatto un ragionamento che è di questo tipo: c'è bisogno di erogazioni, di cantieri reali subito, possiamo farlo soltanto con interventi diffusi sul territorio, in ambito urbano, piccoli cantieri, cioè cose che non hanno bisogno sostanzialmente né di un lungo iter autorizzativo né di un progetto complesso, come invece è per quasi tutte le altre opere. Anche quelle di oggi, insomma, prima ho detto che questo CIPE è importantissimo politicamente perché dà anche un segnale, tu ricordavi che era fissato al 23 aprile, forse possiamo anche ricordare che in realtà si attendeva da circa 4-5 mesi, perché da tanto, insomma, si aspettava un po' di chiarezza su questi fondi per le infrastrutture e questi sono arrivati. Forse va detto che c'è un po' di delusione proprio su una serie di opere, programmi ulteriori di piccole opere di, diciamo così, manutenzione del territorio che pure si attendono. Allora, Giorgio, non è per essere sempre maliziosi, però mettiamola così: siccome le piccole opere sono quelle più facilmente cantierabili, il sospetto che viene, e viene anche ai nostri ascoltatori al 349-238-6666, è che se tu avessi stanziato, poniamo, 1 miliardo di piccole opere, quelle dovevano essere subito operative, quindi questi soldi uscivano subito. Avendo stanziato 11 miliardi per opere importantissime, ma che poi richiedono appunto il via libera degli enti locali, di varie autorizzazioni, questi soldi restano in cassa a Tremonti, mettiamola così. No? Siamo troppo cattivi? No, è un ragionamento che sicuramente ha un fondamento e mi pare che il Ministero dell'Economia e lo stesso Ministro non l'abbiano negato. C'è una linea ufficiale che è quella di rilanciare le infrastrutture, c'è un risvolto concreto e più realistico che in realtà la cassa momento spesa nella seconda parte del 2009 e nella prima parte del 2010 siamo nell'ordine di qualche milione, credo. Adesso ovviamente questi sono dati molto riservati, è molto difficile arrivarci, però insomma siamo nell'ordine di milioni. Che cosa diciamo invece tira molto da un punto di vista di cassa? Tirano molto quelle opere che sono state già avviate nel corso degli anni scorsi, il MOSE per esempio, per dirne una, che infatti già si candida a un nuovo finanziamento al prossimo CIPE. Il MOSE sta tirando moltissimo, la Salerno-Reggio Calabria sta tirando moltissimo. Quando parliamo di Ponte sullo Stretto, eccoci, di nuove linee ad alta velocità come il Terzo Valico Milano-Genova, come la Treviglio-Brescia, beh, lì ci sarà sicuramente da aspettare. Ecco, proprio del Ponte sullo Stretto volevo parlare, oltre che dell'alta velocità, così facciamo arrabbiare Giuseppe Cruciani, che su questo ha scritto anche un libro. Che soldi ci sono per il Ponte sullo Stretto? Perché finora abbiamo visto soldi solo per i progetti e sappiamo che pure lì, no, col progetto già ci sono dei guadagni, ma oltre a questo, perché io non l'ho capito, ma è una mia deficienza, non è un problema del Ministero, ma non ho capito quali siano i soldi per il Ponte sullo Stretto. Diciamo che il Ponte sullo Stretto si regge su una struttura finanziaria che dovrebbe essere... Su dei pilastri, speriamo anche. Come? No, su dei pilastri speriamo anche che si regga. Sì, certo, su dei pilastri, però anche su dei pilastri finanziari. Il costo dell'opera aggiornato ultimamente sta nell'ordine dei 6 miliardi e 3. Di questi circa il 40, diciamo tra il 40 e il 50% sarà un finanziamento pubblico, per il resto si dovranno trovare risorse sul mercato dei capitali, mercato privato. Per quel che riguarda il pubblico, una prima tranche di 1 miliardo e 3 è già stata stanziata. questa copre sicuramente la prima fase, nel senso che appunto, come dicevamo, ci vorrà un po' di tempo perché l'opera vada a regime, sicuramente per un anno e qualcosa di più siamo coperti. C'è già tutta una manovra messa in campo anche con l'ultima finanziaria per rinforzare questa quota pubblica, quindi mi sento di dire che per la parte pubblica, a costo forse di penalizzare, qui sono un pochino polemico, a costo di penalizzare forse altre opere, sul ponte diciamo il pubblico sta facendo la sua parte anche dal punto di vista finanziario. La grande incognita resta il piano finanziario per quel che riguarda la quota privata, perché lì poi bisogna andare sui mercati, non mi sembra un'area diciamo che in questo momento fa pensare no, con ottimismo. No, e per quello che riguarda, ci chiedono gli ascoltatori, l'alta velocità invece? Da questo l'alta velocità, leggiamo Milano-Genova, Treviglio-Brescia, tunnel del Brennero, tutto bello, ma quale partirà per primo? L'alta velocità, c'era un grosso problema di finanziamento per le due linee che si erano candidate a essere le prime da realizzare dopo la chiusura della Torino-Milano-Napoli, cioè il terzo valico Milano-Genova, a Treviglio-Brescia sull'asse diciamo est-ovest Torino-Venezia. Qui il governo ha fatto un piccolo sforzo, nel senso che ha fatto due cose: da una parte ha previsto uno stanziamento diciamo dell'ordine dei 500 milioni per l'uno e per l'altro, che consente di avviare sia l'uno che l'altro cantiere; dall'altro ha rivisto un po' la normativa che in precedenza non consentiva di finanziare lotti, singoli pezzi, diceva tutta l'opera deve essere finanziata insieme. Siccome parliamo di opere che stanno sull'ordine dei 5 miliardi, questo era un blocco, quindi questo è stato sbloccato, si ritorna alla vecchia idea dei lotti, quindi si procede con primi lotti. Quindi agli ascoltatori risponderei che si avvia la macchina, quando poi sarà finita, questo è da vedersi. Avremo spunto per altre puntate di Focus Economia. Grazie a Giorgio Santilli del Sole 24 Ore. E ci avviamo alla conclusione. Intanto ringrazio il pubblico numeroso, si dice sempre in questi casi, da giovane a meno giovane, donne, uomini, insomma è un grosso piacere ogni tanto lavorare anche guardando il pubblico e non solo i tecnici, senza nessuna offesa per i tecnici e gli assistenti al programma, nel caso specifico Pietro Lacorte, Mauro Del Corno e Barbara Bianchi. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Vi do un ultimo aggiornamento che è quello americano: l'America adesso cede qualcosa, meno 0,20% sul Dow Jones, meno 0,6% sul Nasdaq, euro sempre debole a quota 1,2571. Buon salone del libro. Radio 24, la passione si sente.